Davanti all'immagine di Nostra Signora, la poveretta è svenuta, braccia in croce. Al rinvenire con sommessa voce, sospira invocando la Nostra Signora che preghi il dolce figlio per l'anima ferita, perché è finito il corso della sua vita. «Su presto, passate su via, fate presto!» urla il vicedonno, mettendole fretta. Su presto, che è un gran bell'arrosto! Voglio fare di voi, cara mia suffragetta, e di questo tuo corpo, assassina maledetta!» Addolorata la povera donna, quando ode ed intende il vicedonno inveire così e così sfogarsi, ne ha paura più che a folgore bruciarsi, finché ancora spazio e movimento bacia e ribacia ancora il pavimento, ben più di 100 volte dolcemente. Poi il corpo suo solleva agilmente e si segna con il segno della croce, e dopo esclama a tutti ad alta voce: «Madre di Dio, pulsella pura, dama e regina che sei di questo mondo, imperatrice che sei della natura, per il supplizio di fiamma fino in fondo e per la morte crudele e la iattura, alta pulsella nobile e gloriosa, salvami e scampami dall'inferno immondo!» E piangendo leva al cielo lo sguardo e manda un lungo profondo sospiro, invocando in aiuto il santo spiro e supplicando col cuore ad ogni ora la pietà grande di Nostra Signora. Dal tempio esce poi senza alcun indugio la povera donna, sfinita dal pianto, senza di dire o fare più rifugio, picchiando l'hanno portata per l'intanto al luogo del martirio. Dietro muta c'è tanta folla da riempir le strade di nobili e di popolo minuto. Lontano di città, ben isolata, c'è una vecchia capanna di paglia. La povera donna tutta scamiciata lì dentro getta e chiude la canaglia. A un grosso palo la legano stretta, da ogni parte la sua carne è cretta di legna, di trucioli, di strame, di vecce secche, di stoppie, di fasciame. Il tugurio vien riempito tutto. Il vicedonno allora grida forte: «Presto, ora presto, accendete il fuoco sotto!» Laddove quella stava incatenata con forti corde e lacci stretti a morte, gettano tutti fuoco da ogni parte. Si alzano dalla capanna il fuoco e il fumo, e il tugurio si incendia e va in frantumo rapido più che un fustello di carte. Quelli che hanno cuore buono e mite, quando per tutto vedono fuoco e fiamma, pregan piangendo Nostra Dama che abbia pietà di lei, che la sua vita nelle sue mani aveva consegnato. Quelli che hanno spirito perverso e son vigliacchi e crudi dentro il cuore, sfogan col fuoco il loro animo perso, spesso le chiedono urlando se lei ha caldo e le sta bene, pensano con spirito ribaldo. La gente buona prega per lei, i crudeli sghignazzano ridendo e sostenendo che merita le pene d'infedele. La capanna viene subito bruciata e crolla tutta insieme ammonticchiata, fino alle nubi in alto son lanciate e sprizzano e volano in cielo le scintille. È così fiero ed è così violento il grande rogo e l'incendio di faville, che ormai per tutti l'anima è nel vento e la carne arsa, bruciata, incenerita. Ma la pietà profonda di Nostra Signora, in così grande rogo e grande fiamma, così bene preserva e salva quella donna, che non ne risente danno a nessun'ora. È sana e salva dentro fiamma ardente, non perde sangue e non è ferita, non si lamenta più e non grida niente. Sembranzi quasi che sia addormentata, poggiata al palo che pure brucia ancora. Nemmeno i suoi capelli d'un bel biondo sono stati toccati dalla fiamma e conservano l'oro del suo mondo. La donna ignobile, la donna perfida, la donna molle, inquina la purezza, rumina in pietà, rende sterile l'azione. La donna malvagia spinge al delitto, frena la bontà. La donna è un animale feroce, i suoi crimini sono come i granelli sulla sabbia, Eppure non voglio biasimare quelle che devo benedire, le donne giuste. Ma poiché devo farlo con il mio canto, mordo mentalmente le donne locuste. Ora la donna malvagia diventa la mia pagina scritta, il mio discorso. Femmina sordida, femmina perfida, pur femmina approvandola, fracta, la biasimo munda, tutto, coinquina, timpia, rumina, tatte, non le darò mai. Accelus abbona, fitma la femmina, calcara bene. La donna incita la femmina, sun sua crimina, sicut arena. Ragiri, non è o carpere, quas benedicere, debe o justas. Ogni donna sed qui a debe o carmine, morte o mente lo custas. E nel vivere nunc ma la femmina fit mihi pagina, fit mihi sermo. Se satis approbo, se sua reprobo, perse qua ergo. Se mai ne cade, femina nutibus artibus actibus impia suadet, cogere crimina totaque femina, vivere gaudet. Nulla qui dem bona sita menet bona contigitulla, est mala res bona namque fere, bona femina nulla. Carne maledetta, femina res rea res male carne avel caro tota. Decisa a tradire, strenua trodere, natacque fallare, fallare dotta. Fossa novissima, vipera pessima, pulcra putredo, bella putredo, semita lubrica res male pubblica, preda que predo, orrida noctua pubblica, ianua dulce veneno, nil bene conscia mobili simpia vas lue plenum, dolce veleno, vas minus utile plus violabile flagitiosum, empia insaziabile dissociabile litigiosum, vaso inutile facile da violare, merzle vevendita saccito perdita serva metalli, flemma domestica, fonte di discordia, diligitunica, causa di litigi, fallere falli, merce facile da vendere ma presto perduta, mantibus ostis et ostibus extat amica, fiamma domestica, petitur petitit quellucrim etituzit iniqua, ed essere ingannata, sun sua gaudia, è nemica di coloro che l'amano, propria, ed è amica dei nemici, lux sua nocte, non interpellata chiede e considera un guadagno, ex padre concepit, ex que nepote. Queste cose sono la sua gioia, fossa libidinis, arma voraginis, os viziorum. Notte. Ec fuit est, nulla est peream, esclude, peritordo bonorum. Concepisce dal padre, femmina perfida, femmina fetida, femmina fetor. Di libidine. Est satanetronus uic pudrestonus sanctuge. Bocca dei vizi. Lector. Così essa fu, e sarà, e a causa sua andrà distrutta la schiera dei buoni. Femmina perfida, femmina disgustosa, femmina oscena. Essa è il trono di Satana. Per lei il pudore è un peso. Fuggila, o lettore. In quinto folgendan virgo d'un floribam dobris mich diu veletal omnibus placebam oi oi male di canturtini e iuc sapiam posite male di canturtini e iuc sapiam posite e a voi discendi visengan flores adunare tu poi de miscia in unghetan ebi deflorare oie oie male di canturtini e iuc sapiam posite male di canturtini e iuc sapiam posite non mi spiede avvisen hand sed non indecenter erbist mich du wieselang, walde fraudolenter. Oie, oie, male di canturtili e iux abbiam posite, male di canturtili e iux abbiam posite. Herr Greif, mir andats witz gewandt, walde indecenter. Forte mich bide an multum violenter oie oie male di canturtili e iux abbiam posite male di canturtili e iux abbiam posite sprach roue che avia bats nemus est remotum tirre vec de habeat plancieto potum oie oie male di canturtini e io sappia un po' su te, male di canturtini e io sappia un po' su te. It's that ein linde Folgen dann nun procula via da hab ich meine Herfelan timpanum cum lira. Oi, oi, male di canturtini, io sappia un po' su te, male di canturtini, io sappia un po' su te. Tu ergiudi a Lindencom, dixit, sedeamus, diumin et vanzaden man, ludum faciamus. Oi, oi, male di canturtini, io sappia un po' su te, male di canturtini, io sappia un po' su te. Ergreif mir an den Wiesenlieb, non absque timore, sprach, ich mache di kein Wieb, dulcis es cumore. Oi, oi, male di canturtini, io sappia un po' su te, male di canturtini, io sappia un po' su te. Warf mir auf das Händenlin, corpore detecto, errante mir in as Burgenlin, cuspide erecto. Oi, oi, male di canturtini, io sappia un po' su te, male di canturtini, io sappia un po' su te. Nam den Kocher und den Bogen, bene vin abatur, derselbe hätte mich betrogen. Ludus compleatur. Oi, oi, male di canturtini, io sappia un po' su te, male di canturtini, io sappia un po' su te, male di canturtini, io sappia un po' su te, male di canturtini, io sappia un po' su te. اشارت های دل بارم زوی مام گویمت دارم هزاران گفتنی کو فرصتی تا گویمت تا که اشارت های دل بارم زوی مام گویمت دارم هزاران گفتنی کو فرصتی تا گویمت تا که اشارت های دل بارم زایی ما thank you. ای مونس روز و شبم، ای مونس روز و شبم، جان آمد از غم بر لبم، جان آمد از غم بر لبم، تا نشنود کس مطلبم، بازا که تنها گویمت، تا نشنود کس مطلبم، بازا که تنها گویمت، تا که اشارت های دل بارم زویی ما گویمت، دارم هزاران گفتنی کو فرصتی تا گویمت. صد گفته دارم در دلم، صد گفته دارم در دلم، ناگفتنی از آرزوس، ناگفتنی از آرزوس، روزی اگر در گفتگو شد اغدهی واگویمت، روزی اگر در گفتگو شد اغدهی واگویمت، تا کی اشارت های دل بارم زویی ما گویمت، دارم هزاران گفتنی تا فرصتی تا گویمت. Quasi disperavamo nella trepida attesa dell'amica sul ciglio della via, quando ecco un tintinnio di monili e bracciali, quasi a dire: è la luna sul ciglio della via. Lamentati, fanciullo, quanto sai, e il poco che puoi dir, dillo col pianto. E l'è morta stamane, era una foglia, se ne volò leggera giù dal ramo, sia scintilla di lagrima il suo lutto, nuovo dolore in me, dolore antico, arde nuova in eterno ogni candela, arde con me e col folle ogni dolore, ma soffrir quant'un altro non è requie. È stato come fondere la luce del tramonto che è fiamma di rubino, come il galoppo d'un cavallo stanco che d'un tratto si schianta sul sentiero sassoso e non pareva, ma è consunto quello zoccolo dentro, e mentre il cuore si sfalda il corpo no, non vuol morire. Domani certo ci solleveremo dalla polvere, è noto, sarà festa grande, quel giorno di resurrezione, a gloria d'altre nozze, soffieremo nel corno della gioia altri sospiri, ad esca d'altre lacrime saremo, pietra che inferno e paradiso brucia. Pur se di questa morte a noi ragione non renderanno, il velo della quiete, turbolenti all'eterno strapperemo. Piove ovunque e il diluvio anche te strappa alla casa e l'arciere non è stanco, implacabile torna al suo bersaglio. Sono frecce per tutti, per il rimorso di chi ha fatto del male a questo folle e per il canto triste che ne narra. Si ribolle di vita e sono turni per ognuno di sonno e il caso solo ci disloca nel tempo a suo piacere. Pur se a lungo cammini la radura, per ogni dove una fiaccola brucia, e la morte rugiada ogni bocciolo, c'è un sorriso per ogni mio sorriso, per ogni colpa un male a me ritorna, a chi tarda e ad un lutto mi ridesta, io non voglio più chiedere ragione. O nemico, compagno di sventura, o combattente in armi per tuo amore, come una freccia fu che lascia l'arco quel giorno che da lei si separò. Dei vuoti spazi fece sua dimora, desolati di vita, al pianto accesi, ma di canto nel ciglio suo sonori, finché ad un tratto sull'orlo della piana una polvere vide che sollevi il vento, ma non era in quella quiete deserta un vento, era un rosso dolore chiuso in petto a figura d'uomo stanco, piegato a modo di curvo serpente che non d'acqua una sete arde e divora. Lo conobbe, piangeva, era il corriere di lei, le vesti lacere ed il volto spento, corse a baciarlo e di quell'ansia gli chiese a che questo rovente fuoco è l'astro che di certo ammette in via nella gloria o in declino, perché un sogno strano ha fatto a me paura, l'illusione ben sai che mi fu tolta. Parla e corri e dimentica se puoi ciò che sapesti mai di me e di lei, è lo specchio dei tempi del mistero. Rispose il cuore che entro te risplende, e il mio venire è una furia perversa, ma chi poteva tal notizia darti? Veste fragile, velo delicato, allo sguardo membrana che si sfalda, come vento invisibile la vita corre, tendi l'orecchio e non un suono a che oscilla la fiamma del lamento in te dunque, se l'aura cade e tace, come l'onda t'aggrappi e non ti tiene, solida presa in dura terra e morte soltanto, a chi premervi sappia il piede, e il mondo è un ponte che abbiamo gettato senza uno scopo sopra il vasto mare. Levati, che veloce è partita, ci ha lasciato percorrere ai giardini eterni santi, fu il ricordo, credi, il ricordo di te, l'anima uccide, stanco è il mondo, alla morte non è nuovo, ma oggi è te che quella morte addita. Vieni e affida alla terra il tuo tesoro, che il grave peso un altro non solleva e non dissolve un altro il tuo dolore, come rosa per il tocco d'una goccia, come piaga che balsamo suggella, come uccello sfuggito ad ogni rete, rise di gioia e corse, e di canzoni risuonava ogni passo la sua strada, finché la vide fu cheto, e parole nuove disse per lei. Quest'oggi infrange ogni catena il vento, anche i miei ceppi oggi scioglie la morte al tuo dolore. Tu, remissiva alla fede d'Adamo, tu partisti per prima, ma ti seguo, balcone, sulla via della speranza, notte alla gioia ed alba alla mia festa, a tanto nostro incontro io non credevo. Nero specchio una tomba ed è l'amore una fiamma che il fumo la nasconde. Vivere noi non potevamo insieme. Se giorno dopo giorno ripercorri il tempo tutto, un attimo non trovi creato adatto a questa nostra unione. Ti vela ora un sudario e me una pelle ferina. Così oggi dormiremo insieme, sordi al biasimo che morde per tutto intorno e non sa penetrare giù sino al fondo della terra buia. Tenera terra, priva di sospetto, serena terra, priva di paura, fresca terra, che invidia non la smuove, che non ode il clamore dei nemici appostati sui tetti e in mezzo agli orti, coppa di vino in fragile cristallo, più forte che violenta, dura mano. Nel cristallo, col buio, con la notte, proteggici, mio Dio, da tanta vita, da tanta melodia, da tanto canto. Il tuo volto è la vita, le ciglia tue la nicchia, la tua immagine il libro di Dio, son parola di Dio le tue labbra, e tal fu la vampa gloriosa di quel fiammeggiante tuo sole, che ne esplose in ogni atomo il grido supremo: sono Dio. چارشونه داری لیلا خانوم، کنار خونه ما خونه داری لیلا خانوم، همون خونه که رو بر قبل باشه لیلا خانوم، خودت مست و منو دیوونه داری لیلا خانوم جان، لیلا لیلا لیلا. تور کردم ناز غم سکای تور کردم، چشمای سیای تور کردم، راه میری نازک نازک جو قد و بالای تور کردم، وای لیلا لیلا لیلا. دلم میخواست که دلسوزم تو باشی لیلا خانوم، چراغ و شم و پیسوزم دو باشی لیلا خانوم، دلم میخواست که در شب های مهتاب لیلا خانوم، همون ماه دل افروزم تو باشی لیلا خانوم جان، لیلا لیلا لیلا. آخ لیلا وفای تور کردم، ناز غم زکای تر گردم، چشمای سیای تر گردم، راه میری نازک نازک چون قد و بالای تر گردم، وای لیلا لیلا لیلا. ورادی راری راری راری راری راری دوده ri ra ri ra ri ra ri ra ri ra da da da va va va va da ra ri da da ru ra ta da bu bu da da da da da da ri da da ru da da da da da. شطور از بال و مینال ما از دل لیلا خانوم، بنالیم هر دومون منزل به منزل لیلا خانوم، شطور ناله که ما بارم گرونه لیلا خانوم، ما هم نالم که دور افتادم از دل لیلا خانوم جان، لیلا لیلا لیلا. لیلا وفای تور کردم، ناز غم زکای تور کردم، چشمای سیای تور کردم، راه میری نازک نازک جو دادون بالای تور کردم، وای لیلا لیلا لیلا. راه میری نازک نازک جون قد و بالای تر گردم، وای lay low, lay low, lay low. S'alza dunque e fa il segno della croce ed invoca San Biagio e San Martino insieme con San Giorgio e San Genesio e ancora 5 o 6 degli altri santi che furono cortesi cavalieri perché da Dio gli impetrino mercè. Poi, prima ancora d'essere vestito, entrambe le finestre spalancò e vide ecco la torre ov'ella stava. A quella vista pianse, sospirò e da lei supplicò con tutto il cuore: signora torre, bella sei di fuori, ben t'immagino dentro, chiara e splendida. Piacesse a Dio che ora io fossi là, restando a Don Arcibaldo invisibile e a Margherita del Pari e ad Alice. Nel dir questo gli cadono le braccia e non si poté più reggere in piedi, impallidisce il cuore, gli vien meno, entra in quel punto uno dei suoi donzelli e credette che stesse per cadere, così accadrebbe se non s'affrettasse a cingerlo col braccio dietro il capo e quanto può strettamente a sorreggerlo e sul letto di nuovo a coricarlo. Mai non vedeste in tanto affanno alcuno per amore così subitamente. Il donzello fu molto spaurito che non gli trova né polso né vena. Perfetto amore gli rapisce l'anima là nella torre dove riposava Flamenca, senza punto sospettare che di lei fosse innamorato alcuno. E Guglielmo la tiene tra le braccia e le fa complimenti e le dà grazie e la carezza così dolcemente che non poteva ella darsene punto se la sapesse chi in braccio la stringe per estasi così soavemente. E il geloso perduto avesse i sensi, tanto che più non potesse riprenderli. Nessuno c'è che esprimere potesse quanto diletto e quanta contentezza preso n'avrebbe per gioioso pegno, se potesse mai essere scambievole tale piacere goduto per estasi, varrebbe credo più che per effetto, se desiderio soltanto e speranza e immaginare ciò che non accadde né in alcun tempo mai potrà accadere procura già qualche ombra di piacere. Quando amore ebbe fatto a suo talento dell'anima, con lei se ne ritorna dritto a Guglielmo e al corpo ne dà lume, sì che ancor prima di riaprire gli occhi, la fronte e il viso tutto gli sorrise. Questa fu un'alba. E quando riaprì gli occhi, di luce tutto risplendette il sole che ormai già s'era levato. È radioso Guglielmo e colorito, ben dimostra d'aver fatto soggiorno il luogo onde si tiene per beato, che ne tornò più vivace di gioia e di bellezza che quando v'andò. Il damigello aveva tanto pianto che aveva tutto bagnato Guglielmo sulle guance, sul viso e sulla fronte e gli dice: signore, un grande sonno avete avuto e io grande dolore. Guglielmo dice: amico, a quel che sento dolore avuto hai tu della mia gioia. تا قدر یک دیگر بدانیم، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگس یک دیگر نمانیم، که تا ناگس یک دیگر نمانیم. خدا گفته که مو دور از تو باشم، خدا گفته که من دور از تو باشم، ز غم باریک‌تر از موی تو باشم. خدا داده به تو حسن و جمالی، خدا داده به تو حسن و جمالی، که ما در حسرت موی تو باشم، که ما در حسرت روی تو باشم. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگز یک دیگر نمانیم، که تا ناگز یک دیگر نمانیم. دلم دیوونه بود دیوونه تر شد، دلم دیوونه بود دیوونه تر شد، ربات گمنه بود ویرونه تر شد. هنوز زخم دلم سر وا نکرده، هنوز زخم دلم سر وا نکرده، به روی سینه اون زخم دگر شد، به روی سینه اون زخم دگر شد. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگز یک دیگر نمانیم، که تا ناگز یک دیگر نمانیم. گل روی تو به هر گه کنم یاد، گل روی تو به هر گه کنم یاد، چو بلبل برکشم از سینه فریاد. ز ما مجنون تری کی دیده لیلی، ز ما مجنون تری کی دیده لیلی، ز تو شیرین تری نادیده فرهاد، ز تو شیرین تری نادیده فرهاد. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، بیا تا قدر یک دیگر بدانیم، که تا ناگز یک دیگر نمانیم، که تا ناگز یک دیگر نمانیم. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui si a noi meridiana face di carità, e giuso tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna sei tanto grande e tanto vali, che qual vol grazia e a te non ricorre, sua disianza vol volar senz'ali. Beata vi scira, ma No.